Lo sa la parola più usata al mondo da internet? Selfie, e l'autoritratto fatto col telefonino. Questo è un elemento in più, credo, per riflettere. La parola più usata al mondo è il selfie. L'autoritratto non si fa con il proprio telefonino. Grazie professore Andreoli, alla prossima.